internet security come ce l'ho io, sta tranquillo che immagini strane non ti metto, c'è una barra. No, adesso la verità da quando c'ho questo, no, mi blocca abbastanza bene. Io quando c'ho quel nel caffè, ma ti cazzo già mai tu, già mi sono entrati, Oh, è roba. Sono antivirus, però per internet non fanno bene. L'unico, come si deve, internet security però, antivirus più la protezione per internet. È la burata di parte di bella da più che si usa. E quello c'ho. C'ho proprio quello. È bruttissimo proprio. E allora c'ho 3 mesi. Ma è tutto quel caro, poi va a fatto. E via. E quello del 2009 c'è cioè, allora. Per un anno però ti libera per approvare a volte riescono anche da tipi ciga se me quanto me ne sono passati per le mani inchiodate per boiate di piccolissimi virus presi giusto andando tutti nei siti porno piccolissimi virus inchiodavano tutto quanto tanto vale spendere 50 euro e non avrei nessun problema di perdere dati e cose del genere. E anche io fanno sempre così. Come Nata, anche tu? Fanno sempre così. A favore. Per capirsi. E lui cosa vendrà? Però se lui l'ha comprato meglio. E vende. Lui compra e noi vedremo. Io sto usando il rete, se non sei tu. Beh, solo che ogni mese rompo le palle. No, ci hanno buttato tutti i soldi in antivirus. Hanno comprato in un banda, lo sporco lavoro lo faceva, però era troppo pesante. Troppo pesante. Sto parlando di 4 anni fa, non avevo pagato 45 euro, poi mi sono accorto che esisteva il TAP, sì, 3 anni fa, buga di tutto, guarda che chat. Se no, no, sono in affitto. E non so se quello, per carità, no, c'è una 232, ma io adesso mi devo fare già qualcuno, Adriano, con il 932, stai incasinando il PC. Ehi, faccio mettere a brutto. Ehi, ho provato, grazie, lo so. No, io sento a provare, ho sbagliato la classifica dei migliori antivirus, tanto hai visto che fanno la classifica ogni anno, che apporta la commissione. E dare reso conto di qui, di carte scrive, insomma, 99,8% di successo qui è il migliore. A primo posto, quindi quello si usa, effettivamente, non parte la mocca, Più volte nell'altro PC, quello che uso per la radio, invece non c'è carte scrive. E andando nelle stesse pagine di internet, chi è tutto pieno di pubblicità, di bucaria, in quello grande invece nel PC c'è carte scrive, ne buca, pensa a pubblicità di cose, di MSN. possibilità per il microfono di spiegare il CPR. Per mezzo. Fate il conto. a te lo fa andare una lista qua, questo. Ma anche la di tranquillo. Questo signor Fonseca non è piccolo come è stato il signor Vabbè. La voglia. E se ti vogliamo un appento lo costruiamo. Via, non c'è problema. Una cosa per più nuova, ben fatta. Se lo vedi così cazzo di suonare. Sei disturbo che ci sono stasera, eh? Lo so già di te. Un po' di disturbi ci sono. C'è la roba dell'aria. E come sta chiamando il tempo, Emi? Ah, tu mangiava la tempo lei. Ma sento questo disturbo che fa molto picco. Senti, tutto. Ah, di cui non è messo abbiamo. Perché tanto Comunque prende due abbracciati, no, che non ci ha fatto nulla. Non cambia niente, no? È forte come radio, è molto... C'avrebbe i finali rispetto all'altra che ciò c'avrebbe i finali, però no... Ce lo vediamo, l'importante è quanto è. L'importante sono di scala a 20, sono di scala a 20 va a fondo, quindi invece così di scala a 200 siamo intorno ai 45-40 watt modulati, ma già vabbè, la radio mi interessa, devi stare attento se strappa la radio, se ho fatto bene le regolazioni dei potenziometri sulla LC e sul VCO. Troppo grande, comunque me la sono fatta io. stava intorno ai 40-60 euro più il viaggio, più lo schema elettrico, più due trimmer nuovi in pratica che mi ha sostituito e due condensatori, in tutto mi è costato sui 140 euro. Sì. Va bene così, ok, d'accordo, non c'è nessun problema, l'importante è che la radio funzioni, è quello che mi interessa, ma meglio i soldi vanno e vengono. Non si sa se domani ci sono, quindi è meglio togliersi un vizio a 100 malanni, diceva quello. Bye. Ok, perfetto, siamo sempre in cuffie, tu dimmi sempre se c'è qualche anomalia. Ma c'era Franco, c'era Coso, come si chiama? Io sono rimasto qua sul 21, conosco farmi con Franco a splatterare a Saverio, doveva essere tra Fugendi che cosa amara. Poi c'era Luigi Vulcano, c'era Luca, non so chi c'era, non so dove sono su 10 da qualche parte. Blu. Io sono entrato ora e stavo mangiando, Claudio, sicuramente Franco e cosa l'ho chiuso, Franco e Luigi Vulcano, capito? Ah, ecco, l'anima lunga, vabbè. No, io rimango sul 21 a farmi due chiacchiere con Antonio, così tengo funzionare questa radio e l'ho terminata. E così non mi sposto e non rompo le palle a Salvedio. Ah, però almeno non c'era nemmeno, sto entrando ora. Ho acceso ed era sul 10 dove ero rimasto poco fa con Franco, che li ho salutati, Franco e Luigi. E adesso ho acceso, ho girato al 21, ci siete voi, capo. Va bene, ci siamo io e Antonio. Da parte tua ho fatto un bel lavoro, come mi ascolti bene? C'è la radio che stavo utilizzando l'altro giorno, sta voce non usciva male, c'è un problema, adesso si sta sentendo pulito, chiaro, va bene. Sì, sì, è quella dell'altro giorno, abbiamo abbassato un po' il Mickey Gain, perché io mi sento in cuffia e rimbombava troppo, ecco qua, questa è la mia posizione al combattimento, quindi mettiamo il lock, se mi ascoltate bene così. La lascio stare così, vediamo quando scalda al massimo, comunque la ventola sta girando, ho la mano sotto, sì, la ventola sta girando, sta raffreddando, beh, dovrebbe essere ok, le prendi a tutti. E già si sente che sta girando, ha voglia. Si sente brutto, però non si sente più come poco fa. Sta diventando più silenzioso adesso perché si sta mangiando quella, siccome era troppo nuova, infatti lo metto, se è rumoroso all'inizio non ti preoccupare, l'importante è la serie del cuscinetto sia messa bene, ma è un cuscinetto che la devi prendere con la pinzetta e inserire dentro un praticamente una guida. E poi inserire la ventolina e reinserirla nel motorino, quindi io l'ho fatta al contrario perché mi veniva meglio, ho sollevato le alette, l'ho inserita nel motorino, poi ho abbassato le alette e ho chiuso il cuscinetto, l'ho fatta girare un po', mi si toccava, era rumorosa, perché era più nuova, quindi le mani leggermente più grandi, però mi ha detto quello, basta che faccia 2-3 giri belli completi, si mangia appena appena il... quella gomma che c'è, quella pattina che le mettono, poi è tutto a posto, infatti sembra tutto ok, eh? Già va bene, già va bene. Già si trova, non è un problema. Il corpo è GC. Ma mi pare aver sentito anche a Luca. Luca, ci sei? Sentito a Franco fischiandomi, ho già, oh cla. No, non me ne dà mai fastidio a Franco, no. Non mi splattera Franco, ma Franco è un avversario di lotta. Ma non per splattere, io splatter con queste radio non le cerco. Ecco perché a volte non mi accorgo, se mi sposto lo faccio involontariamente, cioè lo faccio apposta a spostarmi, però per rimanere nei canali bassi. Però involontariamente succede come è successo l'altro giorno, che io non mi sono accorto che tu eri sul 21 facendo QSO e quindi ti stavo dando fastidio, ma ti ho chiesto scusa, non l'ho fatto apposta, non voglio rompere le scatole a nessuno. Ok, mi spiace Gian, porca miseria, ci tenevamo fra quella radio, comunque già ho il telefono, se ha problemi lo porto io da Carlo Chiaramonte, da come mi vado più, lo faccio mettere a posto io fino a... Ciao, guarda, io mi do il primo, è lo stesso, è una stacca. fatta lì, proprio là, è il contorno, no, no. Quando ci vogliamo non lo vai, ma non c'è nulla lì. Tanto io domani cerco di mettermi a posto un po' per la contabilità settimanale, vado presto alle 7, penso per le 10 e mezza 11 di essere a Sassari, ti faccio un po' col telefono così sali un attimino e te lo prendi, perché lasciarlo lì non si sa mai, capito? È sempre un buon alimentatore. Mi ascolti bene, Frassi? Thank you. dopo la modulazione, confermate? O l'aumento? Com'era? Aspetta. Così era, c'aveva la modulazione. Così, la lascio stare così, a questi livelli. Sì, andiamo bene così. È perché mi ascolto in cuffie e sembra troppo alta, però se va bene a voi, a me no, non c'è problema. Quindi in FM va bene, manda laterale va bene, tutto, sembra che abbiamo colpito. Va tutto bene, io stavo cercando di regolare qua, ti sentivo. C'è un altro apparecchio che è perfetto, manda laterale. Sì, va bene, ma basta, Franco, non c'è problema, era solo così una prova. Anche in FM andava bene comunque, a sapere. Positivo, si conferma. Io non ce l'ho l'FM, però ti ho ascoltato lo stesso. Io ho ascoltato a tutti e va bene. Perché basta girare questo, come diavolo si chiama, mi sembra che sia Tone e ti sento. Sì, infatti. Va bene, ok. No, ma di modulazione posso aspettare, c'è il processore che aumenta, ragazza. Mi sembrava strano, te. Non c'avevo un processore inserito, sai, non mi hai fatto aumentare la radio troppo. Adesso alza. Sarà Franco che si è spostato. Sono negativo, Wissar Radio. Se attacchi Wissar non lo so, guarda. Ah, si attacco quell'altra. Ma voglio tenere funzione questa, se no è un casino. Se no è un casino. Ci ho lavorato e sta gracchiando la vento, la sento io, maledetta cazzo. No, sento qua, la modulazione è della radio. Sento una specie di... Cosa senti? Aspetta un attimo le cuffie. La salvo la radio, non lo so. Non so che come la ascolti tu. Toccato, guarda. ci sono. Mamma mia, già tardi per me. Mia madre non vuole andare alla baracchina a quest'ora. Ma come mamma vuole? No, adesso l'ho messo normale come era prima, va? Già va bene. Perché poco fa era troppo forte. Ho sbagliato. No, no. facciamo più sento, come se prendava la potenza andata via del tappucci. Adesso la appoggiando a 20 watt di portante, 50 modulati, eppure sta andando bene la radio, ma posso sollevare anche a 50 di portante, 100 modulati. Non succede niente, è che se va in saturazione è normale, siamo tutti vicino. Però la radio va bene adesso. Protezione, ho andato in protezione che deve allungare il dito al massimo. Grazie. Il carro era tutto al massimo. Tutto al massimo. Tutto al massimo, direi. Dall'interno era tutto al massimo. Non regolava dall'esterno. Adesso dall'esterno regola. Non posso regolare. Prima non regolava dall'esterno. Ma per carità, grazie. Allucinante, per un valvolare in banda laterale andava a 230 watt, ha detto così, ma la cassa di finale monta a 440, sono andato a controllare le posizioni del carrier con il tabulato che mi ha mandato Guidetti ed erano tutti al massimo, sia il power che il carrier, tutti e due. Figurati, cioè, io dico questo, questo tu chi va a fare che non lo sa dove andare la mano, ecco lo dico io. Mi sono acceso una radio, non ho messo una frequenza. ci sono andato a lavorarci sopra. Cuffia in testa e seguendo tutto il programma me la sono sistemata. Adesso speriamo ci si sieni bene la ventola e poi siamo a posto. Ci ho provato pure io, ma il 9.30 non fa, sì. Non fa assolutamente accendere. Ma a ti brucia il radio, quando pure senza antenna? No, io c'ho tutta l'equa, non hai visto come sono organizzato. Io sotto la scrivania c'ho una piastra in rame dove ci sono tutti i cavi di massa giallo-verde, giallo-verde che attaccano con i bulloncini passanti e l'occhiello, tutto a scaricare sul rame, capito? E qua ci ho provato ad ascoltarne, altre musiche ci ho abbordate e bruciate, esiste. No, qua io metto le cuffie, non fischia niente. Senti bene la modulazione, poi voglio abbassare ancora leggermente la potenza, poi te ne iniziamo a scaldare e sta salendo, siamo già quasi a 20 watt di portante, così la regolo a caldo, aspettate che metto le cuffie, le prendi intanto tu fra. Sì, ma forse non c'ho per attimo le cuffie a vedere. Ok, mi sembra che sia già, di che ore sono? 11:10. Sa che io devo chiudere qua, dai. Bisogna anche io fra un pochetto, allora il power è qua e lo abbassiamo leggermente un secondo solo, Ecco qua, lo metto a che non salga più di 50 watt modulati, perché così sono ecco qua, così a caldo è regolato e è a posto. Vabbè dai, io vi saluto, dai, io devo chiudere perché è troppo tardi. Ciao a Bodi e tutti, Claudio, Salvezza, te Franco e tutti quelli che sono d'ascolto. Ciao a Bodi e tutti. Ciao a tutti, buonanotte, buon tutto, saluto a tutta la mia partita. Ciao brava, vai Claudio. Ciao Anto, un abbraccio, grazie dei controlli, saluto a Babbo, ci sentiamo domani, buonanotte, avanti Salvezza. Ciao Franco, ciao. sentiamo domani, ci siamo vicini. Ciao Claudio, buon corrente a tutti e due, saluto a Gianluca, tanto mi sono guardato in Sky, no? Me lo metto a parlare agli Andy. Ciao, alle prossime. Ciao, ciao, te lo faccio domani con la commissione, capito? Ok, ciao, buonanotte a tutti. Ciao, ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte a tutti, ciao, ciao.